Signor direttore, egregi intervenuti, anzitutto vorrei congratularmi con l'Istituto Storico Italo-Germanico di Trento per aver ideato, concepito e organizzato questo importante convegno internazionale di carattere storico-giuridico. Le minoranze fra le due guerre. Sono molto lieto che il nuovo Istituto Austriaco di Cultura a Milano ha potuto contribuire alla realizzazione di un tale progetto proprio qui, in questa città, in cui anche geograficamente ci sentiamo vicini all'argomento. Basta guardare l'elenco dei relatori studiosi, eminenti studiosi di molti paesi europei, per essere convinti già dall'inizio che il nostro convegno ci presenterà un ampio quadro sulla questione delle minoranze e anche sui sviluppi in questa materia. Si discuterà su un problema che in certe parti poco distanti da qui è oggi non è meno acuto che nei primi decenni di questo secolo. E infatti non si può non avere avanti agli occhi nel contesto di questo convegno, quello che accade e che sta ancora accadendo nella ex Jugoslavia. Comunque l'ipotesi, almeno come ipotesi di lavoro, indispensabile in questo mondo, sarà anche l'ipotesi dei lavori del nostro convegno sulla questione delle minoranze. Comunque, augurandoci che queste consultazioni possano, inoltre agli aspetti conoscitivi, anche dare qualche impulso ai confronti dei sviluppi concreti in merito, io vi prego di accettare il mio più cordiale saluto. Grazie.